Ok, Ira, dammi uno dei tuoi beat più so... Non ce n'è, neanche ora, nessun beat solo, completa. Vabbè, dammelo una come Ghiega a fare un pezzo con Tommy, va? Non basta l'impegno, non basta cercare sostegno. Il guerriero non ha onore se il suo scopo è indegno. E non basta neanche celare tutto nell'ombra. Il rispetto non si compra col veleno di un cobra. Ma lo si guadagna a un prezzo mai scontato. E non basta neanche dire cazzo ci ho provato. Sta salita non è poco, a testa che è atroce. E sta vita me la gioco, a testa o croce. Non basta avere cura, fare la persona matura. Sta vita è imprevedibile, non c'è sceneggiatura. Vengo dalla città di Pirandello, ti do la sua cultura. Un segreto è come il mare, più è profondo più fa paura. Non basta fidarsi del concetto di amico antico. Un amico è il primo a pugnalarti alle spalle, capito? E se non sai te ne accorgerei a breve. Ci resterei di me, ma la vita prosegue. Non mi basta più. Spinge l'oltre limite terrestre, tanto non mi capireste. A me basta il più. Da spingere con un giro di vita, dite che voi non fareste. Non mi basta più. Spinge l'oltre limite terrestre, tanto non mi capireste. A me basta il più. Da spingere con un giro di vita, dite che voi non fareste. Jason. Non basta rap, non basta l'acqua, non basta l'alcol, non basta. Non basta avere il flusso, non basta avere il gusto. Culo servono pedate in culo. E non ne prendo da quando mio padre me le dava e mi mandava a scuola. Da loro una scuola non ha più visto il mio culo. E non lo vedrà di sicuro. E certo non basta sparare per poi fare centro. Troppe fare, troppe gare, voi noi. Troppe rate da pagare che non basta il mio stipendio. E ho sempre troppo meno tempo per sperare. Mentre cerco di campare, sogni vanno via col vento. Di tanto in tanto tento un salto a doppio elastico. Dentro al fantastico mondo del rap, mondo spastico. Ma non lo mastico sto slang, la mec per freddi, c'è che guercio. Del resto detesto il riciclaggio lercio. Ed io per forza non vi apprezzo, già da primo ascolto. Vi smonto pezzo dopo pezzo, di buono e di nuovo non si sente niente. Il vostro suono non apprezzo, nel senso che non si vende. Non mi basta più. Spinge l'oltre limite terrestre, tanto non mi capireste. A me basta il più. Da spingere con un giro di vita, dite che voi non fareste. Non mi basta più. Spinge l'oltre limite terrestre, tanto non mi capireste. A me basta il più. Da spingere con un giro di vita, dite che voi non fareste. Non basta dire che non basta finché basti. E non bastano sti giochi di parole negli incastri. Per diventare qualcuno non basta MTV made. Esserci con me diventa disaster date. Per darci voce strilli tipo Claxon. Ma non bastano un 10 e 2 per essere lui Branson. Basterebbe che mi prestassi io più di Sherry. Per chi mi fa ridere come Jim Carrey copiando Katy Perry. Per chi si fa le pose pane e Photoshop. Per coloro che definire icone. Per altre 100 persone che non so. Ladri finti gentiluomini come Remile Bo. Non basta fare il gangsta infamando i fratelli. Se vuoi lusso fatti fare una doccia dorata da R. Kelly. Se vuoi fare il rounder sinfonia te canasta. Se vuoi scusarmi adesso basta. Non mi basta più. Spinge l'oltre limite terrestre, tanto non mi capireste. A me basta il più. Da spingere con un giro di vita, dite che voi non fareste. Non mi basta più. Spinge l'oltre limite terrestre, tanto non mi capireste. A me basta il più. Da spingere con un giro di vita, dite che voi non fareste. Nel blues, dipinto di blues, felice di stare sul groove con te.